può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24 in questa giornata uggiosa un po' dappertutto, credo, in Italia. Sicuramente qui a Milano navighiamo nella pioggia e un po' fuori città anche in qualche residuo di neve. E di navigare però verso altri lidi parleremo in questa puntata di oggi di Si può fare, perché appunto vogliamo un po' allontanarci dalla nostra solita vita, vogliamo pensare ad altro, vogliamo prendere il largo con voi, capire anche un po' che cosa c'è là al largo, perché insomma non sempre le cose vanno benissimo da un punto di vista ambientale e vogliamo proprio parlarne. Del resto andare per mare, anche se rischioso, è sempre stato un po' il desiderio dell'uomo. Anche quelli che nascono più lontani dal mare poi alla fin fine hanno questa attrazione per il mare. Ad esempio il nostro primo ospite, Alex Bellini. Buongiorno Alex. Buongiorno a tutti voi. Ho letto che sei nato in montagna, sulle Alpi, e poi insomma la vita di mare ti ha conquistato nel corso del tempo. Sì, corretto. Inizialmente era un amore difficile da comprendere, che mi spaventava molto, non avevo esperienza, non sapevo addirittura di che cosa dovessi avere paura in mare o da che cosa dovessi difendermi. E poi invece c'è stata questa fortissima attrazione che mi ha spinto ad attraversare due oceani. E poi comunque di avventure ne hai fatte tantissime, tu sei un esploratore ormai professionista, via via hai imparato come difenderti dai pericoli del deserto, appunto del mare, dei grandi fiumi che hai percorso. Noi l'anno scorso ci siamo sentiti al primo fiume dei Ten Rivers One Ocean che stavi facendo. Com'è andata poi quell'esperienza? È stata un'esperienza meravigliosa ed orribile al tempo stesso. Meravigliosa perché quando si naviga, quando si esplora, quando anche si attraversano zone molto compromesse come il Gange o l'India in generale, non si può ad un certo punto misurarsi con la meraviglia della natura, che è capace di distruggere da una parte ma di ricrearsi e di riattivare quel ciclo di fioritura, no? Anche quelle grandi campagne indiane che vengono regolarmente spazzate via dai monsoni, e poi il limo che viene giù dalle montagne dell'Himalaya riporta nuova vita su queste grandi pianure. Quindi la meraviglia, d'altra parte è orribile perché non ci sono filtri, non ci sono dei filtri, dei livelli di separazione tra te e la natura che attraversi, che è spesso veramente compromessa e ogni tanto viene da piangere. Poi c'è sempre la tu sei anche che un testimonial, no? Per certo, tu come? Sei anche testimonial per esempio per One Ocean Foundation questa serie di viaggi che tu fai anche per testimoniare lo stato nel quale versano certi luoghi della terra. L'inquinamento del mare in gran parte deriva dai fiumi, sappiamo, e quindi tu volevi proprio vedere lo stato dei fiumi. Esattamente, sì, si parla di inquinamento da plastica e il mio interesse, che poi è il focus del progetto Ten Rivers One Ocean, è risalire il problema e andare a conoscere i reali problemi, perché l'inquinamento da plastica non è un problema, è la conseguenza di altri problemi. E quindi proprio con l'animo e lo spirito dell'esploratore si va alla ricerca di questi problemi. Sono temi che ho trattato anche recentemente in un tour universitario che ho sempre compiuto con One Ocean, che mi ha portato da Roma, Firenze, Bologna, Pavia, insomma in 5-6 atenei più H-Farm l'ultima tappa, conoscendo e incontrando professori e studenti. È stato veramente molto, molto appagante e piacevole. E che cosa ti chiedono più spesso? Perché ad esempio io di tanti fiumi che tu hai visto, però poi sono stata incuriosita dalla visita, diciamo così, al Great Pacific Garbage Patch, cioè questa isola, ma io non ho mai capito cos'è, un'isola solida, è un blob in mezzo all'oceano pacifico di plastiche, che cos'è? Non è, perché le altre cose riesco un po' a immaginarle, no? Ma questa proprio non riesco. Non è quell'isola, non è quel continente che uno si può aspettare, perché già l'idea dell'isola di plastica richiama alla nostra mente qualche cosa su cui possiamo potenzialmente andare a camminarci sopra. In realtà è veramente una zuppa, una minestra chiamerei di plastica, composta da micrissimi frammenti di plastica di origine molto, molto diversa, perché poi è ormai difficile conoscere qual era in origine il prodotto, e poi da grandi oggetti che possono essere reti da pesca o comunque attrezzatura da pesca che vengono perse o abbandonate in mare. Stiamo parlando comunque di un'area molto grande, di circa 1,5 milioni di chilometri quadrati, su cui si è disteso circa 100.000 tonnellate di rifiuti di plastica. Ma è spessa? È spessa anche? Tipo iceberg? No, non è spessa. Io ci è proprio arrivato nel punto più densamente inquinato, ho fatto un bagno e ho fatto un piccolo reportage, chiamiamo così, proprio per mostrare che quello che noi crediamo sia una cosa, in realtà è tutt'altra cosa. Ma il fatto stesso che la sezione della plastica sia piccola non deve farci credere che il problema sia altrettanto piccolo, perché quanto più piccolo è il frammento di plastica, tanto più grande il problema, perché ad oggi non ci sono tecnologie per andare a raccogliere questa plastica e quindi bisogna interrompere il flusso di plastica all'origine, non andare a tappare buchi o metterci delle toppe, no? Nell'oceano. Assicuriamoci di interrompere questo flusso di rifiuti prima che l'acqua arrivi nell'oceano. Certo. Allora, i nostri ascoltatori, devo ricordare che come sempre c'è il 349-238-6666 per gli sms e l'800-24-0024 per le loro telefonate. E nel frattempo, Alex, ti volevo dire, come hai trascorso questo periodo in cui neanche tu hai potuto andare in giro per il mondo? So che hai scritto. Ho scritto molto. Ecco, diciamo che non sono stato fermo, è come se avessi preso la rincorsa, quindi non potendomi più muovere fuori, sono tornato un po' indietro per prendere la rincorsa. E questo momento di fermo mi è molto servito per allinearmi perfettamente con l'obiettivo che voglio raggiungere, che non è la navigazione dei 10 fiumi, perché questo è il progetto a cui sto lavorando, bensì accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale delle persone. E questo obiettivo può essere perseguito in 1000 modi, non solo navigando attraverso i fiumi. E quindi è stata l'occasione per ridefinire il quadro delle attività in quest'ottica qua. E poi la scrittura è stata sicuramente l'attività che ho svolto con più regolarità, e tant'è che intorno alla fine di ottobre è uscito quest'ultimo libro, che appunto, parlando di viaggi, il titolo è Il viaggio più bello, che è un viaggio... Che però dici è il viaggio dentro di te, viaggio con se stessi, dentro se stessi, è particolare, detto da uno che invece fa sempre, ma o forse è, in realtà no, adesso che la capisco bene, forse il viaggio di te lo fai ogni volta che fai un viaggio, forse. Esattamente, proprio così, anzi devo dire che se viaggiassi senza poter fare il viaggio di dentro, per me sarebbe tempo perso. Non ho tempo da buttare via, sono un quarantenne, come molti quarantenni sentiamo di dover rendere al massimo ogni secondo, e se io viaggiassi e non potessi accedere a quelle aree ancora inesplorate di me, ecco che allora sarebbe veramente tempo buttato via. E il viaggio invece mi insegna la meraviglia, non solo la meraviglia del mondo che c'è di fuori, che è ancora capace di sorprendermi e sorprenderci, ma la meraviglia anche di scoprirsi diversi, più grandi, diversi da quello che pensavamo che fossimo. E questo è sicuramente la meraviglia più grande, è quella che poi di fatto ci rende persone migliori, no? Conoscerci e accettarci per quello che siamo. Esattamente, e quindi questo viaggio, questo volume è anche un aiuto per il lettore in questo senso, o più una tua narrazione? No, è un libro che vuole essere un modo per accompagnare il lettore a fare un viaggio che magari non è sempre facile e non è sempre neanche gradevole, perché quando uno cerca di misurarsi con se stesso ogni tanto ti va bene perché trovi qualche cosa che ti soddisfa, altre volte invece ti rendi conto che ci sono dei nodi che bisogna sciogliere. Allora questo già di per sé rende meno piacevole il viaggio, però è necessario. Siamo in un momento probabilmente più unico che raro in cui dobbiamo rimettere nuova sostanza nelle travi che tengono assieme la nostra vita, e bisogna partire da lì, bisogna partire dal giardino di dentro, coltivare, prendersi cura di quello che abbiamo dentro, perché solo da lì potremmo ritrovare, a questo è il mio parere, non voglio sicuramente vendere questa idea alle persone, però in un momento in cui ci misuriamo con l'imprevedibilità, l'ambiguità, la complessità di un mondo, è importante avere un centro solido, è importante avere delle radici ben piantate, altrimenti facciamo la fine delle bandiere che si muovono a seconda della direzione del vento. Dobbiamo ritrovare un centro, per trovare il centro dobbiamo essere ben piantati, e per essere ben piantati bisogna conoscersi, accettarsi, imparare anche l'arte dell'attenzione o della pazienza. Che non esercitiamo quasi mai ormai, tutti noi. Alex, grazie davvero e buon proseguimento. Speriamo di tornare presto anche a sentirti sul campo, oltre che appunto in questa versione più riflessiva, ovviamente domestica. Grazie davvero e buon proseguimento. Grazie a tutti voi, l'appuntamento è per marzo, incrociando le dita. Sì. Marzo riprenderemo a navigare, comunque ci risentiremo. Grazie allora, mille a voi. Grazie Alex Bellini, c'è la viabilità. Si può fare. Si può fare. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare. Davide Triacca, segretario generale di Costa Crociere Foundation, ci perdoni, non abbiamo resistito al Love Boat. Buongiorno. Buongiorno Laura. Sarà difficile per me essere interessante come il vostro precedente ospite esploratore, ma io esploro il divano di casa oggi. Dal divano di casa? Beh, vabbè, perché anche lui, però anche Alex Bellini ormai era sul divano di casa, infatti ci proponeva anche le sue riflessioni da viaggiatore sedentario in questo momento. Sicuramente Davide Triacca e i Guardiani della Costa, però, che è il vostro progetto ormai giunto al quarto anno, la quarta edizione, non stanno fermi sul divano, progettano il futuro e in particolare l'hanno progettato i Guardiani della Costa, che poi sono giovani, sono ragazzi, no? In età scolare, l'hanno progettato sui problemi di quest'anno. Che cosa vanno a fare? Andranno a fare, perché poi anche loro adesso fermi, però progettano per Benino. Già, allora, Guardiani della Costa è un grande progetto di Citizen Science, forse il più grande di questo tipo in Italia, che in 3 anni ha coinvolto oltre 12.000 studenti e 2.000 professori in un percorso di sensibilizzazione sulla tutela delle coste italiane, che sono un patrimonio, io dico, straordinariamente bello quanto fragile. Quest'anno, per rispondere alla tua domanda, se ne sono resi conto tutti, ahimè, che c'è un nuovo rischio, un nuovo problema, un nuovo pericolo per l'inquinamento che è rappresentato dai dispositivi di protezione individuale che vanno in mare, attraverso i fiumi, attraverso le città. Le mascherine finiscono in mare, questo sono un problema, rappresentano un grosso problema potenziale, una bomba potenzialmente ecologica per le nostre coste e i nostri mari, e abbiamo chiesto a questa rete di guardiani che, armati dei loro kit didattici, oltre un percorso di sensibilizzazione, andranno in spiaggia e capiranno quanti ce ne sono, dove sono e magari cosa poter fare. Quindi i ragazzi che sono dell'età della primaria, quindi elementari, poi dopo medie fino alle superiori, sono coinvolti in progetti da una parte di pulizia, dall'altra, ho quanto ho capito, di formazione sull'ambiente mare, sull'ambiente marino più in generale, non solo certo specificamente su questa questione dispositivi. Certo. Diciamo che Guardiani della Costa è un programma di educazione ambientale in senso lato. Abbiamo creato una vera e propria piattaforma online in cui gli docenti delle scuole che si registrano, e sono tantissime, quest'anno abbiamo avuto 280 scuole superiori e quasi 700 scuole medie e primarie che si sono iscritte, le iscrizioni si sono concluse pochi giorni fa e stanno iniziando l'attività. Dicevo, prima fanno un percorso di arricchimento delle loro competenze attraverso materiali didattici che abbiamo messo insieme con un parterre di partner scientifici di primissimo piano, e poi applicano quelle conoscenze alla spiaggia non appena le circostanze lo consentiranno, scendi in spiaggia e utilizzando un'app per dispositivi mobili, per cellulari che abbiamo creato, escono e misurano dei parametri di salute delle nostre spiagge. Quindi diciamo che la pulizia delle spiagge è solo un piccolissimo percorso, solo un piccolissimo tassello di un, di un panorama, di un programma. Mi sa che con quella lì li adescate, perché escono da scuola e tutto il resto invece è un po' più di studio, o sbaglio? No, è vero, rido perché in certi casi è vero, ma abbiamo visto che siamo molti, anche ahimè, un po' severi nel monitorare gli avanzamenti degli studenti attraverso i loro docenti in questo percorso di educazione, e devo dire che sono davvero affascinati anche dai temi, perché parlare di inquinamento può sembrare banale, ma poi se si riesce ad arricchire, noi l'abbiamo fatto con dispense virtuali, webinar, facendo intervenire anche dei comici e degli divulgatori scientifici professionisti che rendessero quelle notizie fruibili e divertenti, allora vediamo che l'interesse c'è, l'ingaggio c'è e gli studenti sono straordinari. Certo, se si potesse uscire in spiaggia sarebbe molto meglio, ma ci torneremo prestissimo. Sicuramente. E che, visto che siete al quarto anno, nel corso del tempo, che esperienza vi siete fatti? Cioè, come rispondono gli studenti, a cosa hanno più interesse? Magari, appunto, vedo che avete coinvolto l'Enea, l'Istituto di Robotica, quindi che cos'è che cattura di più i ragazzi? Ma allora, è straordinario vedere come, essendo il percorso didattico aperto a studenti e docenti di tutti i corsi, quindi non solamente degli scientifici, ma di tutti, riusciamo a notare che a seconda degli indirizzi degli studenti viene espressa in modo maggiore una o l'altra componente. Ricordo ad esempio qualche anno fa, due anni fa, la partecipazione di alcuni licei artistici che sembravano, come dire, quasi sulle prime armi, quasi fuori luogo sui primi acquistazioni, in realtà poi si sono dimostrati straordinari nel rappresentare ciò che trovavano in modo creativo e efficace anche per gli altri, piuttosto che gli istituti tecnici, appunto lavorando con la scuola di robotica, hanno creato dei robotini davvero incredibili che hanno stupito tutti noi, capaci di raccogliere la plastica, ad esempio. Davvero? Li hanno fatti loro? Sì, noi abbiamo dato alcune dispense per costruire robottini partendo da materiali semplici con l'aggiunta di appunto davvero di pochi euro per comprare quello che mancava, e sono riusciti a fare dei ROV, dei piccoli esploratori subacquei, sono magnifici. Se andate su guardianidellacosta.it ci sono ancora i video, le fotografie di queste cose straordinarie che nessuno di noi credo sarebbe stato in grado di fare, insomma. Che bello, così si scoprono anche dei talenti, magari delle professioni, insomma date una possibilità a ragazzi che non avrebbero mai potuto magari arrivare, no, così a livello scolastico a fare questi prototipi, invece così ce li hanno in mano, ci hanno anche una soddisfazione. Sì, magari vi danno anche la risoluzione a grossi problemi. Ma infatti è sempre, diciamo che è un po' la finalità anche della fondazione questa, no? Di rappresentare in qualche modo un ente di frontiera che è in grado di confrontarsi davvero apertamente e alla pari con tutti per avere idee, progetti, iniziative. Lo facciamo, abbiamo già Guardiani della Costa, uno dei 30 progetti della Fondazione Costa Crociere, sia sociali sia ambientali. Diciamo che è proprio questa quella che hai appena menzionato, la finalità, no? Tirare fuori il talento delle persone e cercare di metterla a servizio di questioni urgenti sociali e ambientali. Questa è un po' la nostra finalità. Il bello di Guardiani è che non consente solo alle scuole costiere, solo alle scuole litoranee di partecipare, ma ci sono scuole da tutta Italia. Nelle 280 scuole superiori di quest'anno ce n'è tantissime dell'entroterra che probabilmente, come dicevi tu, spinte anche dal desiderio di a un certo punto del percorso scappare in spiaggia, hanno aderito e aderiscono e davvero hanno un livello di partecipazione che ci stupisce. E che cosa? No, non abbiamo più tempo. Allora devo fermarmi prima che mi tolgano il microfono. Comunque, voglio ricapitolare, perché adesso per quest'anno direi che avete chiuso, però insomma si può sempre seguirvi, no? I Guardiani della Costa, come abbiamo detto, su internet. La fondazione è quella si chiama Costa Crociere Foundation, per l'esattezza, se lo cercate su internet. Davide Triacca, il segretario generale, è stato con noi, le auguriamo un buon proseguimento, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Noi abbiamo adesso le informazioni del giornale radio. Oggi, tra l'altro, mi ricordano la giornata mondiale del suolo, noi stiamo parlando di acque e di suoli, meglio di così non si poteva fare. Torniamo tra poco. può fare. Si può fare. If it makes you happy, it can't be that bad. If it makes you happy, then why the hell are you so sad? E torniamo di nuovo insieme, parliamo di navigare, pensiamo a lidi magari più caldi, ad altre spiagge o comunque semplicemente a tirarci fuori magari da una situazione complicata, e quindi navighiamo un po' a vista oppure navighiamo nella melma, come mi suggerisce qualcuno, per essere così, per usare un eufemismo. Ebbene, ce ne sono di persone che vivono queste esperienze, ce ne sono di persone che hanno trovato qualche soluzione, quindi ne vogliamo parlare con Paola Scarsi, giornalista, autrice di Oltre il Covid, 365 idee per superare la crisi. Buongiorno Paola. Buongiorno. Persone no, che si tirano fuori. Prego. Volevo fare una premessa. Io ho sentito con un po', ho ascoltato con un po' di nostalgia l'intervento precedente, perché io sono genovese, quindi sentir parlare Costa Crociere mi ricorda sempre quando ero ragazzina, vivevo sul mare. Adesso vivo su un lago, però non è lo stesso. Non è la stessa cosa, lo so, capisco bene. Io ho vissuto qualche anno in Liguria e vista mare, o meglio, bastava attraversare la strada e ci si faceva il bagno da maggio a ottobre almeno, insomma eravamo bambini e ci lasciavano fare da maggio a ottobre, gli altri magari facevano anche di più. Non è la stessa cosa. Adesso ho vista Fiume, ma anche lì non è che ci si tuffa. Vista Lago, devo dire, vista Lago ci bagni stanno spesso. Però come insomma dai, ci dobbiamo tirar fuori dalla melma comunque. Cosa hanno inventato le persone che hai intervistato? Allora, io ho scritto questo libro di raccogliere la maggior parte di soluzioni che imprese grandi e piccole di qualsiasi settore e in qualsiasi zona d'Italia avessero individuato per cercare di uscire dalla crisi causata dalla quarantena. Io parlo, mi sono dedicata soprattutto alla prima fase della pandemia. Per rimanere nel tema, ad esempio, ci sono state due soluzioni, una a Venezia e una in Sardegna. Ah, bellissime le lette, sì. A Venezia c'è stato il Barkin, che è stato il primo drive-in italiano. Sono state 5 serate di proiezioni con la prenotazione del posto in barca obbligatorio, c'erano i gavitelli, la distanza di sicurezza era garantita, mi è sembrata un'iniziativa degna di nota. Invece in Sardegna, che ha salvato la situazione, perché altrimenti si doveva cancellare. Eh sì, certo. Diciamo che ovviamente è una cosa che non si può fare in tutte le zone d'Italia, però è stata un'idea per comunque cercare di recuperare, di creare un evento. Invece in Sardegna c'è stato un festival musicale che di solito si teneva sulla terraferma, invece quest'anno si è tenuto in barca, e anche qui c'è stato un boat party, era il Red Valley Festival, dove ci sono stati ospiti di fama internazionale. Il concetto era sempre lo stesso, cioè il palco su una barca e gli spettatori sulle barche ormeggiate intorno. Quindi anche questa è una soluzione per cercare di recuperare, di non cancellare un evento. Ovvio che anche in questo caso è stato più semplice, che in Sardegna circondata dal mare, però intanto è stata individuata questa soluzione. E diciamo poi ce ne sono tante di soluzioni per altre situazioni un pochino più magari quotidiane, perché qui volevo dirti che quella delle bancarelle del mercato mi è piaciuta tantissimo. E forse anche riproponibile per altre situazioni, per altri contesti. Questa è stata una famiglia che credo adesso abbia ripreso la vendita che faceva prima della quarantena, però io non l'ho verificato negli ultimi tempi, che comunque vendeva sul mercato abbigliamento, e come tutto si è fermato, loro sono rimasti fermi, e invece di tenere vestiti in magazzino hanno deciso di creare la vendita online, aiutati, e questa è la cosa curiosa di questa famiglia, da una sorella che vive in Australia. Infatti, loro... è questa rete internazionale addirittura dall'altra parte del mondo. Esatto, quindi facevano le riunioni ad orari compatibili con il fuso orario dell'Australia e tutto in casa, per cui i figli che fotografavano con lo smartphone i vestiti che erano indossati dalle zie, la nonna, dai parenti che vivevano in casa. E comunque anche in questo caso sono riusciti a vendere anziché rimanere proprio con tutte le giacenze. Devo dire che questa della vendita online è stata sviluppata da molti, che alcuni di questi imprenditori, soprattutto nell'abbigliamento, ma anche nel beverage, ad esempio, nel food, l'hanno sviluppato appunto da decidere poi di mantenerlo, non solo affiancarlo, ma renderlo parte preponderante del loro business. Poi ci sono state cose più semplici, ma anche queste legate alla necessità di liquidità. Ad esempio, tutti quelli che avevano animali, quelli che io ho cercato, che hai trovato, ho trovato, che avevano animali, per cui allevamenti di mucche, di bufale, di asi, di cacciava formaggio, miele, hanno trovato la soluzione con l'adozione. Adozione che permetteva, adottando per un periodo l'animale, comprese le galline, di avere la liquidità necessaria per pagare i fornitori e mandare avanti comunque l'azienda, a fronte di una fornitura successiva, quando la situazione si fosse normalizzata, dei prodotti che loro appunto producevano, per cui il formaggio piuttosto che le uova, il miele, le marmellate, quindi ecco tutti metodi per andare avanti. E quindi no, le possibilità ci sono. Paola, scusa se adesso ti interrompo, ma perché dobbiamo dare la linea al traffico e come sai siamo scanditi ogni quarto d'ora da qualcosa, però qualche soluzione c'è, le idee sono disponibili in questa raccolta che tu hai fatto, oltre il Covid, 365 idee per superare la crisi. Paola Scarsi, grazie per essere stata con noi e grazie del tuo lavoro, torna alla Vista Lago. Che grazie, diciamo, è comunque un po' consolatoria, dai. Sì, questo sì, grazie a voi. Buona giornata. Si può fare. Si può fare. Beh, di questi tempi si potrebbe pretendere il cibo dell'Alabama qui e subito e lo si potrebbe anche ottenere, ma è giusto tutto questo? Beh, insomma, mica tanto, non c'è solo una questione di impatti ambientali, le questioni in ballo sono tante. Ne parliamo con Riccardo Valentini, professore dell'Università degli Studi della Tuscia presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente Forestale e delle sue risorse, ma fa tantissime altre cose, tra cui essere un grande globetrotter. Riccardo Valentini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. No, lei vede tantissimo mondo e vede tantissimi spostamenti. Quello dello spostamento del cibo come lo vede, come lo giudica? È proprio necessario avere il cibo dell'Alabama qui e subito? Guardi, è un problema che in realtà riguarda proprio la società umana degli ultimi 30-40 anni, che è diventata globale. Il cibo si sposta con l'uomo, no? Lo è sempre stato, ma oggi in modo particolare è stato tutto possibile, no? Quindi vogliamo tutto subito, vogliamo gli avocati anche d'inverno e li vogliamo trasportare da regioni veramente più calde, quindi c'è effettivamente un problema, anche perché il sistema agricolo oggi è riconosciuto come un sistema che produce emissioni di gas serra, il 37% su scala globale è dedicato all'agricoltura, un fatto nuovo. Noi abbiamo sempre pensato che il problema dell'energia, dei trasporti, diciamo della mobilità fossero i grandi settori che producono il global warming, ma l'agricoltura oggi è riconosciuta veramente per un ruolo importante, insomma, più di un terzo delle emissioni sono l'agricoltura, che ovviamente e poi ci sono i prodotti dell'agricoltura che vanno trasportati, tutto compreso anche i prodotti che vengono, e una parte di queste emissioni è dovuta al trasporto, per trasporto per nave, trasporto per aereo. Ormai riceviamo tutto, diciamo, da tutto il mondo, e circa, in realtà è una componente di interesse circa il 6-10% delle emissioni agricole, ma comunque è sempre molto significativa. Navighiamo in cattive acque rispetto a queste cose, ecco, per restare ancorati al nostro tema del navigare oggi. Tra l'altro ci sono anche tutta una questione non da poco sulle risorse ittiche, che anche queste vengono saccheggiate, professore. Questo, non apriamo questo capitolo, direi, perché è lunghissimo. Il controllo degli approvvigionamenti di cibo è poi anche una questione geopolitica, cambiano i rapporti di forza. Adesso, se noi pensiamo anche al cambiamento climatico, che renderà coltivabili certe aree e desertificherà altre aree, beh, si cambiano anche tutti i rapporti di forza geopolitici, volendo. Mi ricordo una volta parlammo della Siberia coltivabile con lei. Sì, no, effettivamente è vero. In realtà il global warming, il settore agricolo, è decisamente un fattore di stress, con perdite di produzione sono previste anche dal 20-50%, soprattutto nelle aree tropicali. C'è da dire che però alcune zone del pianeta potrebbero anche beneficiarne, sono appunto le zone boreali al nord, diciamo, dove è previsto il riscaldamento, che però potrebbe portare, diciamo, un'espansione, diciamo, dell'agricoltura. In Russia, per esempio, abbiamo stimato con il Centro Europeo di Cambiamenti Climatici sulle nostre simulazioni al supercomputer. Attenzione che la perdiamo un po' a tratti. Sì. Non so se è in movimento, se si no, può fermare. No, sono magistrati. Comunque, mi spiace, spero comunque. Insomma, noi abbiamo già fatto delle simulazioni, per esempio per la Russia, ci sono 40 milioni di ettaro di grano in più dovuto al riscaldamento globale, quindi c'è un'espansione della coltivazione e la Russia potrebbe candidarsi a diventare il più grande gigante agroindustriale del mondo, perché ha veramente una terra vastissima. È poco popolata e quindi più facilmente coltivabile nel momento in cui le condizioni climatiche lo consentiranno. Al momento tante preoccupazioni invece vanno al Sud America, spesso e volentieri, dove noi andiamo a coltivare o comunque chiediamo prodotti di quell'area e quindi si va a disboscare. Beh, effettivamente la deforestazione oggi occupa circa il 30% delle, diciamo, delle superfici, è veramente un qualcosa che degli ultimi 50 anni. E purtroppo che succede? Che i grossi consumatori sono nel nord del pianeta, quindi, diciamo, le società occidentali evolute, cioè, consumano commodities, carne e quant'altro, e però la produzione viene affidata poi ai paesi tropicali, quindi c'è una sorta di sbilanciamento tra chi produce e chi consuma, e ovviamente le condizioni poi di vita, di inquinamento delle persone che poi producono è un problema anche dal punto di vista sociale, perché vede, il cibo purtroppo è una produzione molto particolare, si devono tenere bassi i costi a tutti i livelli di produzione, quindi anche i salari sono molto bassi, e questo fa sì, per esempio, faccio un esempio, il coltivatore del cacao oggi occupa 1,5 milioni di bambini nel mondo, no? E questo, diciamo, è perché la speculazione finanziaria deve avere dei costi bassi di produzione, e questo è qualcosa che non va bene. Sì, e poi lasciamo appunto tutte le conseguenze alle popolazioni locali. Noi magari siamo qui a mangiarci qualcosa che riteniamo, non lo so, tofu, che riteniamo molto sostenibile, però in realtà abbiamo creato un problema da qualche altra parte, quindi bisogna razionalizzare un po' anche le nostre richieste. Beh sì, la Cina per esempio è un caso, diciamo, che fa scuola, di scuola dopo, sì. Dal dopoguerra, insomma, la dieta cinese è tipicamente vegetariana, come sappiamo dagli anni 50 è diventata carnivora, fortemente di carni rosse, quindi di bovini eccetera, che oggi la Cina è uno dei più grandi accaparratori di terre proprio nei paesi dell'Africa, per esempio, per produrre soia, per fare mangimi, per fare gli allenamenti eccetera, quindi abbiamo un po' sconvolto il pianeta, ma questa è la dimensione, ormai l'uomo domina, non c'è un punto della superficie terrestre dove noi non siamo già andati, no? Noi chiamiamo questa l'era dell'antropocene, quindi l'uomo che domina il pianeta in tutti i livelli. C'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, lo ripeto nel caso voleste appunto intervenire e commentare, c'è anche l'824-0024 per le telefonate. Dicevo, c'è un ascoltatore che dice: quindi niente parmigiano o franciacorta in America? Non credo che il punto sia quello, noi parliamo in questo momento di commodities, della base delle cose, non stiamo parlando di un prodotto finito. Sì, no, effettivamente diciamo le emissioni per unità di prodotto, se le calcoliamo così, diciamo i prodotti trasformati sono molto molto più basse, ovviamente il trasporto incide pochissimo. Poi lo dobbiamo razionalizzare, ovviamente dobbiamo fare in modo di non fare una nave con una bottiglia, ecco, ma questo è nelle cose, credo, anche di chi spedisce. Certo. Però per esempio, ecco, tutta la parte diciamo invece più fresca di produzione primaria, quella ha un impatto invece il trasporto molto molto più elevato del prodotto trasformato, quindi assolutamente il parmigiano non è un problema, però magari per esempio le arance dal Sudafrica potrebbero esserlo, ecco. Sì. E, c'è una questione che io non lo so, ogni tanto mi appassiona, poi mi disturba, non lo so, poi la prendo e la lascio tutte le volte, quella delle borse degli alimenti, della borsa e le speculazioni che vengono fatte sul cibo. Io non la trovo, diciamo, etica, capisco che sia necessaria, però non so, lì come la giudica lei? No, in realtà la situazione si è molto aggravata negli ultimi anni, perché ormai le food commodities, cioè, chiamiamole, sono ormai una borsa, è una parte della borsa di situazione finanziaria che non è, diciamo, legata, i cui resti, diciamo, hanno un'oscillazione abbastanza volatili, ma non è dovuta, si è visto ormai negli ultimi anni, tanto al clima o alle produzioni, alla domanda, all'offerta. E purtroppo ci sono degli studi che mostrano come questa volatilità in realtà è dovuta a fattori esogeni al settore, cioè praticamente alla speculazione. Quindi il fatto che la gente compra per poi rivendere i derivati e quant'altro sono associati a questo. Quindi io sono d'accordo con lei che il cibo è una cosa così importante per l'uomo, per l'integrità della sua vita, e deve essere uguale per tutti, non ci possono essere disuguaglianze sul cibo. Possiamo magari discutere se uno può avere, che ne so, la Porsche, la Ferrari o una macchina normale, no? Per dire, ma non può non avere il cibo. Questo è un fatto etico molto importante. Io veramente spererei che le Nazioni Unite pongano il tema della situazione finanziaria al centro del problema dell'agricoltura. Sì. Allora, noi la dobbiamo salutare, anche perché la linea ci sta via via abbandonando, e la ringrazio comunque, professore Riccardo Valentini dell'Università della Tuscia, buon lavoro, alla prossima occasione. Grazie, arrivederci. Allora, c'è un'osservazione che arriva da un ascoltatore, ascoltatrice, non so, ma cosa c'entra il tofu? Dice: se la soia non è sostenibile per alimentare gli animali da allevamento, magari la gente mangiasse più tofu e meno fiorentine. Ma al di là della questione di vegetale contro carne, io direi magari la gente mangiasse più cavolfiori, verze, che sono qua nell'orto senza doverle portare da chissà dove. Abbiamo tra pochissimo una piccola pausa, siamo già pronti? Sì, una piccola pausa e poi torniamo insieme. Si può fare. Si può fare. O fa, ma che scocciatura. Questa guerra non mi piace, non la voglio fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore, svergognato. Ma questa volta le crociate, non ci voglio andare. Ed eccoci di nuovo insieme. Qualche messaggio che è appena arrivato dice: perché non dite che il problema è la sovrappopolazione? Invece sottolineate che sempre che l'Occidente è cattivo. veramente noi non abbiamo detto né che l'Occidente è cattivo né che c'è, comunque sia, ragazzi, io ribadisco, più cavoli, più verze, più non lo so, no, non fate venire il cibo dall'altra parte del mondo, se ce l'avete in casa bello fresco, del vostro mercato o addirittura qualcuno nell'orto dei vicini di casa. E a questo punto torniamo a navigare per mare. Abbiamo navigato sulle rotte dei cibi che vanno qua e là, da una parte all'altra del mondo. Andiamo sul mare a questo punto, perché il mare è anche una grande e poderosa fonte di energia rinnovabile. È con noi Grazia Pagnotta, professore di storia dell'ambiente all'Università Roma 3, autrice di Da Prometeo a Fukushima, storia dell'energia dall'antichità ad oggi. Buongiorno. Buongiorno. Mi avevano lasciato indietro un mi sono impiccicata sul nome di questo bellissimo libro che ha appena scritto, professoressa. È un libro che in realtà non tratta solo ovviamente di energie del mare, noi le chiediamo di aiutarci un po' su quel settore, ma in realtà, come dice il titolo appunto, è tutta una storia dell'energia, non è limitata al mare. Il mare, da che cosa si può fare in mare? Che energie si ricavano dal mare? Beh, innanzitutto dal mare può essere ricavata energia meccanica delle maree per muovere le turbine di una centrale e generare energia elettrica. Questo tipo di centrale è chiamata centrale elettrica di marea. Si tratta di centrali che vengono situate in baie, dove con uno sbarramento, una diga, è possibile creare un bacino. Ed esattamente funziona così. Quando la marea sale, l'acqua entra attraverso le chiuse nel bacino al di là dello sbarramento, poi quando la marea ha raggiunto il massimo, le chiuse vengono serrate e l'acqua rimane trattenuta dietro lo sbarramento. Si attende che la marea scenda al minimo, così da avere il dislivello necessario per la caduta d'acqua, e a questo punto si fa cadere l'acqua attraverso le turbine e si genera l'elettricità. La prima centrale elettrica di marea fu costruita in Francia all'inizio degli anni 60, in Bretagna vicino Saint-Malo. Un'altra poi fu costruita in Unione Sovietica alla fine degli anni 60, poi in Cina, in Canada, e nel 2009 ne è stata costruita una in Corea del Sud. In Europa alcuni progetti sono stati considerati in Inghilterra, ma poi abbandonati, perché il fatto è che sono pochi i posti al mondo con le caratteristiche geografiche adatte per queste centrali, quindi per questa ragione non sono molte. Quindi mi piace che lei ricordi anche quanto ricavare energia dal mare sia una cosa che adesso ci sembra il futuro, ma che in realtà è già del passato, è già qualcosa che si faceva e che recuperiamo ovviamente con le tecnologie e le capacità che abbiamo oggi. Sì, in passato sono esistiti quelli che sono chiamati mulini di marea, che erano congegnati più o meno nello stesso modo delle centrali di oggi. Allora, sono stati presenti, diciamo, fino al 1700 in Europa, in quella parte di Europa dove ci sono maree significative, quindi in Francia, in Inghilterra, in Olanda. E allo stesso modo delle centrali di oggi si creava un piccolo bacino le cui acque venivano fatte defluire dopo la marea, e nel loro defluire muovevano una macina che veniva usata per macinare il grano. Prima ancora che in Europa, nel periodo che ho detto, sembra che prima dell'anno 1000 fossero presenti mulini di marea nel Golfo Persico. Ora, io voglio anche aggiungere che queste centrali elettriche di marea sono... Ma per cosa venivano utilizzate? Per macinare? Per macinare il grano e quindi avere la farina. Erano dei mulini, insomma. Certo. E senta, a proposito ancora di mare, abbiamo parlato di maree, oggi sui quotidiani italiani è tutto un fiorire di titoli o interviste, come su Sole 24 Ore, su Eni che punta sull'eolico offshore. Si è presa un bel pezzetto, un 20% del progetto inglese Dogger Bank, il più grande al mondo, così leggo sul Sole 24 Ore. L'eolico a mare, è anche questa una possibilità concreta? È una possibilità molto concreta Sul mare possono essere impiantati piccoli ma anche grandi e grandissimi campi eolici. In questo caso non è l'acqua ad essere usata come fonte di energia, ma ovviamente sono i venti. Le collocazioni di pale eoliche sul mare sono le migliori che si possono immaginare, perché la superficie dei mari è una superficie piana, distesa, immensa, e quindi non si ha il problema dello spazio necessario al loro impianto e di quello che si deve lasciare tra una pala e l'altra. Inoltre non si creano quei problemi di impatto estetico che si possono generare sul terreno quando le pale sono collocate in luoghi di particolare bellezza o vicino a centri abitati, ed è superato anche il problema del rumore che i rotori delle pale possono creare. La pala eolica collocata in mare fu ideata negli anni 50 in Danimarca, paese che insieme agli Stati Uniti ha definito l'ingegneria della turbina eolica. Ed è anche, va detto, il paese che è sempre rimasto legato a questa modalità anche quando è divenuta autosufficiente nella produzione di petrolio grazie alla scoperta del greggio del Mare del Nord, ed è sempre rimasto legato a questa fonte. Quindi tutte le opposizioni che vengono fatte sono solo paesaggistiche fondamentalmente, però anche l'Italia ha tentato, è stato fatto dell'eolico a mare comunque, no? Ci sono progetti? Sì, ci sono progetti, però io penso che questo sia veramente un campo importante nel quale bisogna che i paesi si impegnino di più, perché è una tecnologia che noi ormai abbiamo, è una tecnologia evoluta, molto più evoluta di altre, e che quindi può essere sfruttata. E senta, invece a proposito di tecnologie più vecchie, quando smetteremo di vedere petroliere in giro per i mari? Petrolio, questo è un grande argomento ed è un brutto argomento. Allora, il petrolio è presente sui fondali di alcuni mari, in particolare ricordiamo il petrolio chiamato Brent del Mare del Nord, che fu scoperto alla fine degli anni 60 e la cui produzione è stata accresciuta negli anni 90. Quindi abbiamo le trivellazioni in mare e abbiamo anche le petroliere, come diceva lei, che solcano i nostri mari. Il petrolio inquina il mare, bisogna dire che è un grande nemico del mare, e lo inquina con le fuoriuscite accidentali dai pozzi mentre avvengono le trivellazioni, e poi anche con il lavaggio fuori legge delle cisterne delle petroliere in acque internazionali dove non possono essere viste, e poi con gli incidenti e gli sversamenti che noi conosciamo. Tutta la storia del petrolio è caratterizzata dagli sversamenti nelle acque, io poi nel libro riporto anche una tabella dei più grandi, anche se noi conosciamo quelli più noti, i veri e propri disastri più gravi, cioè l'incidente dell'Exxon Valdez nel Golfo dell'Alaska dell'89, l'incidente alla piattaforma petrolifera marina di Deepwater Horizon nel Golfo del Messico negli Stati Uniti nel 2010, e per noi italiani anche l'incidente della Moco Haven al largo di Genova del 1991. Sì, sicuramente per il mare è al di là di tutte le questioni legate all'uso dei combustibili fossili, c'è anche questo ulteriore rischio e pericolo nel portare in giro il petrolio. Le chiedono, professoressa, e prima che io le faccia anch'io avevo una mia questione da sottoporle, le chiedono dell'impatto delle fondamenta, insomma, delle pale eoliche a mare, o galleggiano, no, galleggiare è impossibile, credo, adesso un'ascoltatrice dice se galleggiano a mare, ma non è possibile. No, non galleggiano, ma poi dirò qualcos'altro. L'impatto della perforazione per impiantare una pala eolica. Allora, partiamo da un principio di base: qualsiasi cosa l'uomo faccia ha un impatto sulla natura. La natura è modificata dall'uomo, è inevitabile, le civiltà umane l'hanno modificata. Bisogna vedere con quale impatto, che livello, che gradazione di impatto. E la gradazione di una pala eolica che viene piantata sul fondo del mare è sicuramente minore di tante altre opere di ingegneria che noi compiamo, quindi dico un'altra volta, insomma, che l'eolico nel mare è una delle fonti a cui noi dobbiamo più puntare. Allora, le pale eoliche non galleggiano, però voglio dire anche un'altra cosa: sono allo studio anche altri sistemi per ricavare energia dal mare, è stato ipotizzato di sfruttare le correnti di marea. Le correnti di marea sono i flussi al di sotto delle acque del mare, nella profondità del mare, e per utilizzare il loro movimento sono state pensate pale simili alle pale eoliche, pale piantate sul fondo del mare completamente immerse nell'acqua, però sono ancora degli studi, non si è giunti a realizzazioni applicate. E quindi possiamo anche pensare che dal mare saremo in grado in futuro di ricavare energia anche con altre modalità. Dunque, voleva aggiungere qualcosa rispetto a quello di cui parlavamo prima, sul petrolio, mi aveva detto. No. Sì? No, se no passo alla questione degli scenari energetici d'inizio millennio che lei appunto dipinge nel libro. Che scenari vede per il futuro? Allora, gli scenari possono essere diciamo determinati dalle politiche che le società umane scelgono, quindi possono essere scenari negativi come possono essere scenari positivi. Allora, ovviamente lo scenario negativo è quello della continuazione nell'uso delle fonti fossili mantenendole come principali. Lo scenario più positivo invece è quello di un impegno complessivo di tutti i paesi nello sfruttare di più le energie rinnovabili, quindi il sole e il vento. Negli ultimi anni queste energie sono state sfruttate con percentuali di impegno che sono andate man mano crescendo e quindi siamo sulla buona strada. Noi non possiamo pensare, sarebbe irrealistico immaginare che di punto in bianco nel giro di pochi anni abbandoniamo l'era dei combustibili fossili. Si tratta di una transizione, di un passaggio che non avviene in pochi anni, che avviene con una fase diciamo dei tempi medi. E però chiaramente c'è bisogno dell'impegno degli stati, delle istituzioni internazionali, oltre che di quelle nazionali, per fare in modo che... Che poi abbiamo visto negli ultimi anni che una delle leve fondamentali è stata alla fine quella finanziaria, cioè che la politica, le amministrazioni, la stampa, che ne so, le associazioni ambientaliste sono riuscite a muovere molto meno di quanto non abbia mosso la finanza in 24 mesi. I problemi alla fine sono sempre problemi economici, sono sempre problemi di scelte economiche. Tutti i soggetti che lei ha citato hanno svolto un ruolo molto positivo nel diffondere la conoscenza del problema energetico e la conoscenza delle questioni ambientali e dell'emergenza cambiamento climatico, però poi le scelte vengono effettuate dalla politica e dai poteri che hanno in mano il mercato dell'energia, l'estrazione e la vendita. Sì, poi qualcuno mi scrive: il petrolio mi fa sorridere, il petrolio è un prodotto naturale, rappresenta sostentamento di numerosi paesi che altrimenti sarebbero alla fame. Anche la mannita falloide è un prodotto naturale, però non è che fa bene. Primo, in secondo luogo, il sostentamento ai paesi che altrimenti sarebbero alla fame, e non a caso la discussione è proprio come fare questa transizione e ciò che va corrisposto nel momento in cui si va a dismettere un impianto o qualcos'altro, o comunque si deve fare la transizione in paesi che non hanno la possibilità di fare la transizione con le proprie forze, no? Però non è che possiamo evitare di farla. Beh, intanto che si cominci da paesi che invece hanno le strutture, i soldi, le società per cominciare. Noi in Italia abbiamo due grandi soggetti energetici molto importanti, l'Enel, in particolare l'Eni rappresenta un pezzo veramente significativo della storia dell'Italia del Novecento, tutto quello che fece Mattei, lo sfruttamento del metano. Noi siamo stati i primi in Europa a sfruttare il metano, a capire l'importanza che poteva avere all'epoca questa fonte. E questi soggetti energetici di oggi, che sono ancora impegnati nelle fonti fossili, però hanno la tecnologia, la possibilità di passare veramente alle fonti naturali, quindi è da questi soggetti che noi ci dobbiamo aspettare un impegno anche in questi altri campi. Certo. Dunque, la discussione sul petrolio come risorsa indispensabile va avanti sul 349-238-6666. La sostituzione del petrolio, poi uno dice non lo possiamo buttare via, non lo butteremo via del tutto laddove serve, ma dobbiamo utilizzare chiaramente meno e tendere a zero. Professoressa, grazie a Pagnotta. Tutti le faranno questo gioco di parole. Grazie a Pagnotta, professore di storia dell'ambiente all'Università Roma 3. Il suo libro, dal quale abbiamo preso spunto, Da Prometeo a Fukushima, storia dell'energia dall'antichità ad oggi, edito da Einaudi. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Si può fare. Si può fare. In the middle of the night, I go walking in my sleep, from the mountains of fame to the river so deep. I must be looking for something, something sacred I lost, but the river is wide. E poteva mancare in una puntata sul navigare un appuntamento anche con il navigare su internet? No, certamente non poteva mancare. E allora parliamo con Salvatore Ciro Conte, che è il referente per il settore scuola educazione di Telefono Azzurro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Per il vostro progetto Cittadinanza Digitale, più consapevoli, più sicuri, più liberi. Intanto io le chiedo, definiamo cittadinanza digitale, perché lo sentiamo dire sempre, ma poi alla fin fine, forse se io dovessi fare questa domanda per strada, o me l'avessero fatta ieri prima che mi mettessi a pensare specificamente al vostro progetto, beh, non avrei avuto modo di rispondere in poche parole su che cos'è la cittadinanza digitale. Assolutamente, per restare su poche parole, direi è quell'insieme di competenze che ci rende o ci potrà rendere dei cittadini più consapevoli all'interno del mondo di internet, all'interno della rete, quindi competenze che vanno sia da un punto di vista proprio del come stare nella rete, come comunicare, e competenze da un punto di vista anche più tecnologico, quindi ad esempio come preservare i propri dati, e cosa condividere o cosa non condividere, proprio come comportarsi all'interno dei mondi digitali, ma anche competenze e conoscenze legate più propriamente al benessere, quindi allo star bene all'interno di quei mondi. Ed è molto importante per i ragazzi di oggi e anche per i genitori, io credo che sia un tema sul quale riflettere, perché a volte abbiamo paura di cose che non sono quelle che dovremmo temere, cioè quali sono i rischi, diciamo, no, che corriamo veramente? No, questo è assolutamente vero. Solitamente le paure, almeno quelle che emergono nelle nostre indagini, ma anche negli incontri che facciamo con col mondo degli adulti, quindi sia con genitori ma anche con insegnanti, sono quelle un po' più clamorose, diciamo, quindi la paura di poter incontrare, o la paura che i nostri figli possano incontrare qualcuno di cattivo all'interno della rete, quindi qualcuno che li possa adescare o che possano entrare in contatto con contenuti diciamo violenti o contenuti di tipo illecito, che sono, per carità, paure come dire comprensibili, sono rischi possibili all'interno della rete. E quello che maggiormente succede, ed è questa una visione che magari ecco il mondo forse della scuola e degli insegnanti hanno più chiaro, e sono rischi legati ad esempio tutti quei comportamenti che rientrano nei fenomeni del cyberbullismo, o parlando appunto di comunicazione all'interno della rete, esempi che succedono sempre più spesso sono queste derive del linguaggio che virano verso forme abbastanza violente o di incitamento all'odio. Quindi questi sono sicuramente i comportamenti più frequenti a cui i ragazzi e i bambini possono essere maggiormente esposti. Posto e come che, l'insegnate a difendersi da questo? Come si può? Bisogna saperlo. Allora, io se posso cogliere la metafora della navigazione. Colga, ci fa piacere. Okay. È assolutamente in linea. La rete è un mondo complesso, è un po' come il mare. Quindi la metafora della navigazione ci sta assolutamente a pennello. E i suoi ospiti oggi hanno chiaramente esposto la complessità anche del mondo della navigazione del mare, quindi sono possibili come dire, soluzioni fantastiche, soluzioni di ogni tipo, e la rete è un mondo che può soddisfare tanti bisogni, alcuni anche fondamentali come il bisogno di socializzare, e il bisogno di conoscenza, il bisogno di entrare in relazione con gli altri, ma essendo un mondo complesso può avere anche delle derive, come dire, non sicure, proprio come il mare. Nessuno affronta il mare non conoscendolo, tutti i marinai, tutti i pescatori sanno benissimo che non si affronta il mare se non si sa di cosa stiamo parlando, e la rete e internet funzionano allo stesso modo, e quindi è opportuno formarsi, è opportuno soprattutto formare i più piccoli, ma essere in grado di farlo. E spiegare loro, ecco, sì, che il rapporto con i genitori, con gli adulti, vogliamo dire, se non vuoi parlare proprio con la mamma o il babbo, puoi anche parlare con la professoressa, ma è fondamentale quando c'è qualcosa che non li convince. Secondo me, molto correttamente, un ascoltatore scrive che molti cyberbulli, i bambini poi se li ritrovano a scuola. E secondo me è vero, se li ritrovano nelle chat scolastiche, per esempio, e non quindi distanti in luoghi remoti, ci sono per carità anche quelli, ma molto più frequenti sono quelli vicini. È assolutamente vero, ma questo è anche un po', se vogliamo, un piccolo errore che noi adulti commettiamo quando pensiamo al rapporto tra i nostri ragazzi e ragazze e la rete, il digitale, perché per noi è sempre, per chi è cresciuto, come dire, per chi ha vissuto la propria adolescenza nel mondo offline e si è affacciato alla rete nell'età ormai adulta, ha una chiara distinzione tra la vita offline e quella che è la vita online. Per i ragazzi, per quelli che chiamiamo nativi digitali, questa distinzione in realtà non esiste, è tutto molto più fluido e più concatenato, anche la loro, come dire, la loro rappresentazione della propria identità, del proprio essere, è fortemente ibrido tra ciò che sono online e ciò che sono offline, quindi quello che ci troviamo in classe, per dire, ma quello che poi fanno nella rete. E quindi quello che dice l'ascoltatore è assolutamente vero, e i comportamenti che loro osservano e che mettono in atto all'interno della rete, ad esempio delle chat che citava prima lei, ma possono essere anche le chat di gioco, possono influire in modo importante su quello che è loro il comportamento. Sì, perché poi danno per normale qualcosa, esatto, che non è normale. Allora, noi la dobbiamo ringraziare e salutare Salvatore Ciro Conte, abbiamo parlato con lui, che è il referente per il settore scuola educazione di Telefono Azzurro, quindi fate riferimento a Telefono Azzurro per ulteriori informazioni su questo progetto di cittadinanza digitale. Noi ci fermiamo qui a questo punto, arrivederci alla prossima. No, non c'è, ci ha già salutato Salvatore Ciro Conte. Allora, una piccolo così, ci incensiamo un po' e facciamo i complimenti a una collega che è Cristina Carpinelli, collega qui del GR di Radio 24, l'avete sentita, anche conduttrice di Diario di un Giorno su Radio 24, ha appena vinto il premio UCSI, Fondazione Cattolica per la sezione radio, per il servizio All'ombra di un melograno, che è una storia che racconta il dolore purtroppo dei bambini in cura nel reparto di oncologia pediatrica di Borgo Trento a Verona. Voglio ringraziare per questa puntata, oltre ai complimenti a Cristina Carpinelli per questo bel racconto, voglio ringraziare per questa puntata Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo, come sempre il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci ritroviamo domani alle 8:30.